Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'assessore era effettivamente mortificato per quello che ha detto. Ha rassegnato le dimissioni, che io ho respinto con riserva. Quindi nega che ha detto quelle cose, si è scusato. Non... Scusi, lo ripeto, forse non sono stata chiara. Si è scusato davvero con, non so, la cenere in capo, i ceci sotto le ginocchia? Ecco, io... Questo ha fatto, si è scusato. E questo ha risposto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la sindaca Virginia Raggi dopo questo ennesimo capitolo della giunta romana. È un po' stizzita con i giornalisti, l'avete sentito, del resto è sotto i riflettori da molto tempo. Parlava appunto delle dimissioni da lei respinte con riserva, volevano sapere i cronisti in che senso di riserva, poi ce ne occuperemo più tardi, dell'assessore Berdini, assessore all'urbanistica, che aveva rilasciato una intervista alla stampa, da lui poi smentita, ma che la stampa invece ha confermato, in cui criticava la sindaca Raggi, diceva impreparata, circondata da una corte dei miracoli, e poi ha detto anche lei e Romeo amanti, sprovveduti, quindi diciamo delle cose piuttosto pesanti. Oggi la sindaca ha detto mi aspetto che smentisca, lui ha smentito, la stampa invece ha confermato, poi sentiremo anche gli audio di questa intervista, insomma di queste parole comunque captate, e approfondiremo la questione, anche perché tra l'altro è notizia di poco fa che Salvatore Romeo, ex capo della segreteria di Virginia Raggi, per la quale anche per questa nomina è indagata lei e anche Romeo, è arrivato in procura, quindi sarà interrogato, diciamo, praticamente in queste ore, in questi minuti. Ci occuperemo anche di bufale per questo appello che ha lanciato la presidente della Camera Boldrini, con un esperto che smaschera le bufale sul web, le notizie fake, come si dice, fake news, quindi quelle false. E poi naturalmente ci collegheremo anche con Sanremo, seconda serata, è stata quella di ieri, la prima serata, quella d'apertura, un boom di ascolti. Adesso vediamo forse le giovani proposte, sentiamo. Nel mare ci sono i coccodrilli. Sì, è una giovanissima proposta, poi ce ne occuperemo dopo. Intanto vi ricordo sempre che per la vostra interazione qui a Effetto Notte c'è la pagina Facebook Effetto Notte del programma, oppure c'è il numero a disposizione per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. E direi, prima di approfondire i vari temi nel modo più chiaro e usoriente possibile, andiamo con il riassunto della giornata. 'Ndrangheta, l'assessore lombardo Zambretti condannato a 13 anni e mezzo per aver comprato i voti delle cosche. Roma, l'assessore Berdini rimette il mandato dopo l'intervista in cui criticava Virginia Raggi, ma la sindaca respinge le dimissioni con riserva. Partito Democratico, Bersani detta i tempi, sono per il voto nel 2018, il governo Resti si faccia la legge elettorale e a giugno il congresso. Intanto 40 senatori del PD hanno scritto un documento di pieno sostegno al governo Gentiloni e per chiedere un rilancio del partito. Prima via libera al decreto banche, il Senato vota sia la fiducia, il provvedimento passa ora alla Camera. Migranti, da marzo potrebbero prendere il via le procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea per gli stati che non effettueranno i ricollocamenti dei rifugiati. E a Roma il ministro Minniti lancia l'ipotesi che i richiedenti asilo vengano impiegati in lavori di pubblica utilità finanziati con fondi europei. Birmania, l'ONU denuncia che oltre 1000 persone della minoranza musulmana dei Rohingya siano state uccise da quando alcuni mesi fa è iniziata un'operazione militare contro di loro, una vera e propria pulizia etnica. Basta bufale, l'appello che lancia la presidente della Camera Boldrini contro le fake news e per il diritto a una corretta informazione sul web. Tra i primi ad aderire Francesco Totti, Fiorello, Carlo Verdone, Ferzan Özpetek, Gianni Morandi. Sanremo ascolti boom per la prima serata, ma la coppia Conti De Filippi assicura che l'anno prossimo non ci sarà. Stasera super ospiti Robbie Williams e Keanu Reeves. Lega Calcio, Veltroni smentisce la sua candidatura, non ci sono le condizioni, dice, per le partite di oggi. La Juventus batte 2-0 il Crotone, in campo Milan-Bologna. E partiamo quindi dalla condanna dell'ex assessore lombardo Zambretti a 13 anni e mezzo. Era a disposizione delle cosche e con loro aveva stretto un patto, voti in cambio di denaro. Per questo motivo Domenico Zambetti è stato condannato a 13 anni e 6 mesi di carcere, 3 anni in più di quanto la stessa procura aveva chiesto per lui. Zambetti venne arrestato nell'ottobre 2012, uno scandalo che di lì a poco avrebbe contribuito alla crisi della giunta Formigoni e alla fine anticipata della legislatura regionale. Per l'accusa, l'allora assessore regionale alla casa avrebbe dato 200.000 euro alle cosche dell''Ndrangheta delle famiglie di Grillo, Mancuso, per assicurarsi un pacchetto di voti, pagati al prezzo di 50 euro l'uno. Un processo questo che ha dimostrato come l''Ndrangheta, come è stato ricordato nella requisitoria, possa fare accordi con la politica nella moderna e civilizzata Lombardia. Se io sono un 'ndranghetista, allora la mafia non esiste, è tutta un'invenzione, ha commentato dopo la sentenza Eugenio Costantino, presunto referente dei clan, condannato a 16 anni e 6 mesi. Condanna a 12 anni anche per Ambrogio Crespi, fratello del noto sondaggista Luigi, mentre è stato assolto con formula piena Alfredo Celeste, ex sindaco di Sedriano, primo comune lombardo sciolto per infiltrazioni mafiose. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso Roma con i nuovi capitoli, dicevamo, della giunta Raggi. Dopo l'incontro di oggi pomeriggio in Campidoglio, l'assessore all'urbanistica di Roma Paolo Berdini ha rimesso il suo mandato nelle mani della sindaca Raggi. Lei le ha respinte con riserva, come avete sentito. Dice lui si è scusato, ha detto la prima cittadina, e Berdini si difende: ci stanno massacrando, un linciaggio mediatico. Tutto nasce, come vi dicevo, dall'intervista a Berdini pubblicata dalla Stampa, in cui Virginia Raggi viene definita impreparata, circondata da una corte dei miracoli, e dice ancora lei e Romeo amanti sprovveduti. In mattinata la smentita da una parte, poi la conferma parola per parola invece del quotidiano. Grillo intanto scrive: i giornalisti sono sull'orlo di una crisi di nervi, più ci attaccano meno sono credibili. E il PD attacca a sua volta e dice: grave la lista di proscrizione dei giornalisti, perché avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle questa lista dei giornalisti che diciamo in qualche modo sabotano il Movimento 5 Stelle. Poi tra poco torniamo comunque sulle vicende di Roma. Partito Democratico adesso. Pierluigi Bersani detta i tempi per il partito: sono per il voto nel 2018, dice il governo Resti, si faccia la legge elettorale e a giugno il congresso, e invita il vertice del PD a fare chiarezza sulle tappe. Voglio sapere, dice Bersani, che cosa ne pensano Renzi e Franceschini, dalla data del voto tutto discende. Intanto 40 senatori del PD, sia della maggioranza che della minoranza interna, hanno scritto un documento di pieno sostegno al governo Gentiloni e per chiedere un rilancio del partito. Banche: l'Aula del Senato dice sì al decreto salva banche, per il quale il governo Gentiloni ha chiesto il suo primo voto di fiducia con 157 sì e 108 no. Il provvedimento adesso passa alla Camera. E parliamo adesso di queste lettere destinate a 25.000 disoccupati con un assegno di disoccupazione, un progetto sperimentale che sta prendendo il via in questi giorni. Le prime lettere saranno spedite nei prossimi giorni e arriveranno a circa 25.000 disoccupati coinvolti nella sperimentazione dell'assegno di ricollocazione. Un buono che varia tra 1.000 e 5.000 euro e aiuterà chi è senza lavoro da almeno 4 mesi a trovare una nuova occupazione. Il compenso è destinato a centri per l'impiego e operatori autorizzati che aiuteranno attivamente il disoccupato nella ricerca del lavoro, come spiega il presidente dell'ANPAL, l'Agenzia delle Politiche Attive del Lavoro, Maurizio Del Conte. È un buono per ottenere servizi personalizzati di accompagnamento al lavoro. Si ottiene richiedendolo direttamente sul sito ANPAL, dal quale viene fuori il cosiddetto profiling del disoccupato, cioè la sua distanza dal mercato del lavoro, che significa poi la sua difficoltà obiettiva a trovare una nuova occupazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi sempre calda è l'emergenza migranti. Per il ministro dell'Interno Marco Minniti è necessario cambiare passo sia in Europa sia in Italia, e proprio dalla Commissione arriva una minaccia nei confronti degli stati che non partecipano ai ricollocamenti. Bruxelles fa la voce grossa e lancia un avvertimento a quei paesi poco collaborativi sul fronte della redistribuzione dei migranti. Da marzo la Commissione potrebbe aprire nei loro confronti procedure di infrazione e quindi applicare le conseguenti possibili sanzioni. Un monito unito ad un richiamo alla solidarietà nei confronti di paesi come Italia e Grecia, sui quali ricade tutto il peso dei profughi. Intanto, secondo gli ultimi dati del Viminale, al 3 febbraio sono 3.204 i migranti ricollocati dall'Italia nei paesi europei, mentre il record di sbarchi tra il 1 gennaio e il 7 febbraio, oltre 9.000 contro i poco più di 6.000 dello stesso periodo del 2016. E convinto della necessità di un cambio di passo in Europa sull'immigrazione, anche lo stesso ministro dell'Interno Minniti, che in un'audizione in Parlamento ricorda i concetti chiave attorno ai quali il suo governo intende muoversi. Severità con chi non rispetta le regole, integrazione con chi le rispetta, integrazione vera, sapendo che è sbagliata l'equazione immigrazione-terrorismo. In quest'ottica, per il ministro occorre prevedere anche la possibilità di utilizzare richiedenti asilo per lavori di pubblica utilità finanziati con fondi europei. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Adesso all'estero, per parlare di Birmania, perché oltre 1000 persone della minoranza musulmana dei Rohingya sono stati uccisi in Birmania da quando alcuni mesi fa è iniziata un'operazione militare contro di loro, denunciata dalla comunità internazionale di essere una vera e propria pulizia etnica, che ha costretto questa operazione almeno 70.000 persone a fuggire dai loro villaggi. Lo scrive il sito dell'agenzia Reuters, citando due diverse fonti dell'ONU di alto livello che hanno chiesto l'anonimato, non si capisce bene perché. Questa dicono che finora il numero delle vittime è stato nettamente sottostimato in realtà. Torniamo in Italia con la compagnia aerea. L'Italia e i sindacati interrompono la trattativa dopo la richiesta di flessibilità dell'azienda. I sindacati hanno interrotto il confronto con Alitalia sul nuovo contratto di lavoro, sulla ristrutturazione della compagnia. Alitalia ci ha presentato solo ipotesi, dicono, non c'è un piano industriale. La compagnia ha già detto che se entro la fine di questo mese non verrà firmato un nuovo contratto, non riconoscerà più alcune voci in busta paga del vecchio contratto scaduto a fine 2016. In altre parole, Alitalia vorrebbe tagliare le buste paga dei 12.000 lavoratori. L'obiettivo è ridurre complessivamente del 25% il costo del lavoro, in parte con la revisione del contratto, in parte con il taglio dell'organico. Il numero degli esuberi non è mai stato annunciato ufficialmente, ma secondo i sindacati potrebbero essere alcune migliaia di lavoratori a perdere il posto. La compagnia non ha ancora definito la sua ricetta per uscire dall'ennesima crisi. Allo studio c'è la cessione dei voli brevi a un vettore low cost come Ryanair o un accordo con Lufthansa. La pista preferita da Roma sembra proprio quella tedesca. Gianni Dragoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dai aerei ai treni, per gli abbonamenti ai treni alta velocità si potrebbe arrivare a un sistema che prevede un contributo pubblico per favorire i viaggiatori. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio durante il question time oggi alla Camera, durante il quale il ministro ha ricordato che i prossimi abbonamenti mensili saranno acquistabili dal 14 febbraio con una riduzione del prezzo rispetto a quello precedentemente annunciato. E poi basta bufale, questo è l'appello che lancia la presidente della Camera Laura Boldrini contro le cosiddette fake news, le notizie false, e per il diritto a una corretta informazione sul web. Essere informati, dice, è un diritto, essere disinformati è un pericolo. Questo lo spiega Boldrini in un'intervista a BuzzFeed, che è il principale sito al mondo che raccoglie informazione in rete. Tra i primi ad aderire a questo appello della presidente Boldrini sono Francesco Totti, Fiorello, Carlo Verdone, Ferzan Özpetek e Gianni Morandi. C'è anche una notizia che riguarda le polizze, sembra una strana coincidenza, è una coincidenza, è un caso, però l'IVASS, che è l'autorità di vigilanza sulle compagnie assicurative, avvia un'indagine sulle polizze vita dormienti dopo un confronto preliminare con le associazioni dei consumatori e l'industria assicurativa. Stavolta il faro della vigilanza assicurativa viene acceso sulle polizze vita che non sono state liquidate ai beneficiari e che giacciono presso le imprese già prescritte o in attesa della prescrizione. Può trattarsi di una polizza per il caso di morte dell'assicurato, della cui esistenza i familiari non erano a conoscenza, oppure di polizze di risparmio giunte a scadenza e non riscosse per vari motivi. E a questo proposito, di polizze, pensate che nasce una mutua per cani e gatti che costerà 120 euro l'anno, dalle cure veterinarie alla cremazione. Per cani e gatti la salute e il benessere saranno assicurati, quindi arriva in Italia questa mutua, anche per loro costerà 120 euro l'anno, dicevo, prevede uno sconto del 50% per gli adottanti, cioè i proprietari esenti da ticket. È Dottor Bao e Dottor Miao, un sistema privato di assistenza per gli amici a quattro zampe lanciato da Mutua Italiana Assistenza Sanitaria in partnership con Fare Ambiente. E c'è una sentenza della Cassazione, non è stata accolta dalla Cassazione la richiesta di un marito pentito di Foligno che, dopo 6 anni di matrimonio con una giovane donna originaria dell'ex Jugoslavia, unione dalla quale sono nati anche dei figli, si era stufato del fatto che la moglie era spesso all'estero, in Macedonia, a trovare i suoi genitori e aveva chiesto e ottenuto l'annullamento ecclesiastico delle nozze concordatarie celebrate nel 2003 nella cittadina umbra, sostenendo che non c'era una reale comunione di vita. L'uomo voleva che la sentenza dei giudici vaticani, che azzerava appunto il vincolo coniugale, venisse ratificata anche dall'ordinamento italiano, ma la Suprema Corte, che da anni ha messo il freno agli annullamenti cosiddetti facili, che fanno perdere il diritto al mantenimento, ha escluso che i frequenti e lunghi viaggi dei parenti possano rendere fittizia una convivenza matrimoniale durata 6 anni, inoltre arricchita dalla nascita dei figli. Quindi possibile precedente, se qualcuno avesse un partner, una moglie, un marito che viaggia continuamente. E poi, a proposito della tragedia di Rigopiano, diventa una fiction, quella tragedia dell'hotel travolto dalla valanga, una fiction prodotta da Tao 2. A settembre ci saranno le riprese in 4 puntate da 50 minuti. E qualcuno può riflettere sull'opportunità o meno di fare una cosa di questo tipo. Sanremo, ascolti boom, vi dicevo, per la prima serata, ma la coppia Conti De Filippi assicura che l'anno prossimo non ci sarà. Stasera ci saranno gli altri 11 big che non hanno cantato ieri. 4 proposte che hanno già cantato e che sono Marianna Mirage, Francesco Guasti, Braschi e Leonardo Lamacchia. E poi tra i super ospiti Robbie Williams e Keanu Reeves. Ogni tanto ci collegheremo, vi dicevo, con Sanremo, perché tanti apprezzano, pensate che appunto ha raggiunto lo share del 50, oltre il 50% ieri la prima serata. E poi calcio, Lega Calcio, Veltroni smentisce la sua candidatura alla Lega Calcio, dice non ci sono le condizioni. E per le partite di oggi la Juventus ha battuto 2-0 il Crotone, mentre Bologna-Milan prosegue 0-0. Direi che con questo risultato possiamo brevemente fermarci per aggiornare invece chi si sta muovendo, chi sta viaggiando, e vi ricordo che potete continuare a scrivere i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire giorno e notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Sempre, ogni volta c'è qualcuno che dice basta con la Raggi, parliamo di cose serie. Poi un altro dice il TG1, 15 minuti contro la Raggi, è vergognoso, siete giornalisti ridicoli, Giacomo da Bergamo. Vabbè, se i fatti sono questi vuol dire che parleremo di qualcos'altro che non lo so, vediamo, dopo approfondiremo con una commentatrice del Sole 24 Ore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti da non perdere mai la sera con me, Roberta Giordano, con le notizie, i fatti principali dall'Italia e dall'estero, e poi l'approfondimento di vari temi, naturalmente si spera nel modo più chiaro, più esauriente possibile. 349-238-6666 il numero per i vostri commenti, per WhatsApp, SMS, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Tra poco allora torneremo sulle vicende della giunta romana e tra poco vi ricordo anche le notizie più importanti. Non perdetele, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo. Se ascoltate Effetto Notte è chiaro che sarete sempre aggiornati a fine giornata, per l'appunto, sui fatti principali. Continuo a vedere messaggi, dai ma basta con questi TG di cronache mafiose, vogliamo più onestà, vogliamo il Movimento 5 Stelle. Anche prima qualche ascoltatore che diceva basta parlare del Movimento 5 Stelle. D'altronde, allora, al di là che ci siano dei rilievi penali o meno, però mi sembra che ci sia un certo via vai nella giunta romana che per forza attira l'attenzione, anche perché è la capitale d'Italia, diciamo, non è un piccolo paese. E in più, diciamo, di movimento c'è stato, almeno questo possiamo dire che c'è. E adesso Salvatore Romeo, che è andato in procura stasera, quindi è interrogato in queste ore. Berdini, l'assessore all'urbanistica, che prima dice che si dimette, però la sindaca Raggi dice che respinge con riserva le sue dimissioni. E poi quanti assessori in realtà sono andati e venuti, quindi per forza, diciamo, attira l'attenzione. Ne parleremo tra pochissimo, intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Caos Berdini, appunto, che presenta l'assessore romano le dimissioni, è una trappola, dicono nel Movimento 5 Stelle, la sindaca le respinge con riserva e Grillo dice la stampa è nervosa, evidentemente. Fiducia sul decreto legge sulle banche, il primo sì arriva dal Senato, adesso passa il provvedimento alla Camera. E poi Bersani, per quanto riguarda il PD, dice il voto ci sarà nel 2018, si voterà nel 2018, il congresso invece del partito a giugno, voglio sapere cosa ne pensa Renzi. Intanto 40 senatori del PD firmano un documento a sostegno del governo chiedendo che si rilanci il Partito Democratico. Poi per quanto riguarda i migranti, l'Unione Europea fa sapere che da marzo saranno possibili sanzioni sui mancati ricollocamenti dei migranti, cioè quegli stati che non accettano di offrire collocazione, ricollocazione ai migranti. Intanto Minniti, il ministro dell'Interno, dice proponiamo dei lavori utili per i richiedenti asilo non retribuiti e finanziati dall'Unione Europea. Partono intanto 25.000 lettere per i disoccupati in Italia, è un progetto sperimentale con un assegno di disoccupazione, queste lettere. E per quanto riguarda Lega Calcio, Veltroni fa sapere non ci sono le condizioni per una mia candidatura. L'annuncio di Conti a proposito di Sanremo, che dice: sono sicurissimo, non farò Sanremo, non lo rifarò. E anche la Maria De Filippi ha assicurato che a sua volta si sta divertendo, ma non lo farà. E scoppia il caso Leotta, di cui magari parleremo dopo. L'assessore era effettivamente mortificato per quello che ha detto. Ha rassegnato le dimissioni, che io ho respinto con riserva. Quindi nega che ha detto quelle cose, si è scusato. Non... Scusi, lo ripeto, forse non sono stata chiara. Si è scusato davvero con, non so, la cenere in capo, i ceci sotto le ginocchia. Ecco, io questo ho fatto, si è scusato. Così ha risposto ai cronisti la sindaca di Roma Virginia Raggi oggi in conferenza stampa dopo questo ulteriore capitolo delle avventure o disavventure della giunta romana. La sindaca ha detto che ha respinto con riserva le dimissioni dell'assessore all'urbanistica Berdini, dimissioni annunciate oggi dopo questa intervista alla stampa, che in realtà poi Berdini ha smentito ma che la stampa ha confermato. Poi magari sentiremo qualche passaggio nella quale in questa intervista l'assessore avrebbe detto che la sindaca Raggi è impreparata, è circondata da una corte dei miracoli, che lei e Romeo sono amanti sprovveduti. Allora vogliamo sentire un passaggio di Berdini, quello che conferma, nel senso quello che la stampa ha pubblicato, l'audio, vediamo se c'è un passaggio. Ma non sai quanta gente in i mondi che devo frequentare per dovere, grandi commini dello Stato, la vedono che è proprio impreparata, però strutturalmente non per gli anni, perché tu vai a una riunione, che ne so, un tavolo sull'ordine pubblico, sei sindaco di Roma, spiazzi tutto. Se lei si fidasse delle persone giuste, vedi, si è messo sta corte di miracoli. Non chiarissimo, chiaramente, perché vedete, ci sono tutti questi rumori di sottofondo, l'intervista è stata fatta in un locale, pare. C'è un altro passaggio forse, vediamo se fosse più chiaro. Questi erano amanti, questo io l'ho scoperto, non so se il secondo o terzo giorno a naso, dico, ma com'è questo rapporto? Quindi, e dillo, lei era pure, no, già era separato. Vada a letto, che cazzo mi pare, ma possibile sta ragazza deve uscire mai? Qualcosa si è capito. Adesso invece più chiaramente vi farei sentire la smentita che ha fatto oggi Berdini a proposito di questa intervista di cui sentivamo qualche passaggio poco fa. Sentiamo la sua smentita. Io rispondo solo sulla impreparazione, perché io mi sono già espresso almeno 3 volte in 3 interviste, una televisiva e una su un grande giornale, sul Corriere della Sera, sull'impreparazione di tutta l'amministrazione comunale, cioè di tutti noi 10 assessori. E questo mi sembra quasi scontato, cioè anch'io che conosco, come sapete, molto bene la mia città e che amo profondamente questa città, non sapevo, non immaginavo il baratro che ho trovato. Così ha detto Berdini, nel senso che ha un po' corretto all'inizio più sul metodo che non sul merito, dicendo sì, ho detto queste cose, in realtà non era un'intervista, è stato questo giornalista che ha captato in modo così anche forse scorretto le mie dichiarazioni. Io ho detto che tutti noi siamo impreparati, me compreso. Allora, mentre vedo che è iniziato Sanremo con Maria De Filippi, che ha trovato questo escamotage di passare tra il pubblico come distribuisse popcorn, come fosse una maschera, a teatro, al cinema, invece sta distribuendo dei portachiavi, credo, con l'effigie di Carlo Conti. Ma andiamo a cose serie con la nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Cara Manuela. Ciao Roberta, ben trovata. Ben trovata anche a te. Siamo quindi a questo nuovo capitolo. Tra l'altro vedevo poco fa che Salvatore Romeo, che è indagato insieme alla sindaca Raggi per la sua nomina, è arrivato in procura. Sai qualcosa di più tu? No, non si sa ancora nulla di più. Ieri il suo legale aveva detto che erano fiduciosi e che tutto sarà chiarito. Ovviamente stiamo in attesa di conoscere gli esiti del doppio fascicolo che riguarda Virginia Raggi, che, lo ricordiamo, ha l'imputazione per abuso d'ufficio in concorso con Romeo, proprio per la nomina di Romeo, ma anche l'imputazione per abuso d'ufficio e falso per la questione della nomina del fratello di Raffaele Marra, capo dipartimento turismo del Campidoglio. E quello è il fronte giudiziario di cui aspettiamo gli esiti, come è giusto che sia, con il massimo garantismo. Certo, c'è un ascoltatore che scrive: ma non sarà mica un'intervista questa, quei passaggi che sentivamo effettivamente molto rumorosi, con molto rumore di sottofondo d'ambiente. Dice: una chiacchierata rubata, dai, dice che poi dica cose che pensano in tanti, mi sembra chiaro, ma non è un problema. Beh, questo forse se lo pensassero in tanti. È stato uno sfogo, indubbiamente ha il sapore dello sfogo e raccoglie un malessere che non si può negare anche all'interno degli stessi componenti dell'amministrazione. Un malessere che cova non da adesso, ricordiamo che Berdini era anche molto legato all'assessore Marcello Minenna, che fu il primo ad andarsene il primo settembre scorso, il primo di una lunga serie di addii, e che diciamo, le tensioni anche con il resto dei consiglieri grillini erano già forti. Berdini ha in ballo la partita dello stadio della Roma a Tor di Valle, che è uno dei motivi per cui è stato, per cui le sue dimissioni sono state accolte con riserva. La sindaca ha detto esplicitamente che ci sono dei progetti da portare a termine, uno è lo stadio, e Berdini rappresenta l'anima anche vicina all'umore del movimento, l'anima dura e pura che vuole limitare al massimo le cubature. Questo senti, è il... sì, perché si parlava di ampie cubature, quindi di una colata di cemento, diceva esatto. Qualcuno. Senti Manuela, comunque Berdini, ricordiamo intanto, è un ingegnere urbanista, nemico giurato del metodo palazzinaro, come si dice, dello sfruttamento quindi del suolo, un polemista senza peli sulla lingua, che appartiene alla sinistra storica romana, no? se non sbaglio. Quindi... Assolutamente sì, ed era l'anima più di sinistra di questa amministrazione variegata, l'anima più indipendente anche, appunto è un polemista, è abituato a dichiarazioni anche forti, con il linguaggio che si è ascoltato, perché lui quelle frasi le ha pronunciate. Erano sicuramente uno sfogo e non un'intervista classica, diciamo concordata, però le ha pronunciate. La stessa sindaca Raggi oggi in conferenza stampa ha ricordato che lui si è scusato, non ha detto che ha negato di aver pronunciato quelle frasi. Tra l'altro, scusa se ti interrompo Manuela, vedo Brexit, via libera finale in Gran Bretagna, la Camera dei Comuni, quindi si dà l'avvio al divorzio, c'è stata l'ufficializzazione, l'ultimo voto era questo atteso, ora il dossier Brexit passa alla Camera dei Lord al 20 febbraio, ma in caso di modifiche l'ultima parola resterà ai comuni. Quindi qui c'è scritto via libera finale dei comuni, ma in realtà poi dice che deve passare alla Camera dei Lord. Boh, guarderemo meglio poi, sono agenzie che vedo così in un secondo. Manuela, quindi a questo punto tu dici che la sua il fatto di dire respingo con riserva, questa riserva ha chiesto anche dei cronisti che cosa vuol dire, ha chiesto alla sindaca Raggi, lei ha detto un po' stizzita, vuol dire quello che vuol dire respingo con riserva, quindi vuol tu lo interpreti col fatto che ci sono dei progetti che devono essere valutati, verificati, portati avanti. C'è una scadenza, perché la conferenza dei servizi sullo stadio è stata prorogata fino al 3 marzo, quindi entro il 3 marzo la giunta romana deve presentare un progetto e deve trovare un accordo. Quindi in questo momento, diciamo, far saltare la casella dell'assessore all'urbanistica sarebbe l'ennesimo passaggio difficile per l'amministrazione. E quindi per ora si è deciso di tenere la squadra così com'è. Senti, io direi Emanuela Perrone che rispondi tu a molti messaggi di critica di chi dice basta parlarne, questi sono soltanto gossip, anche Di Maio ha detto che in realtà è gossip, parliamo di cose concrete, parliamo d'altro, di cose vere, parlano già appunto di bufali di cui parlerò poi dopo con questo appello della Boldrini, ma tu cosa risponderesti a chi dice che c'è questo infierire senza nessun motivo sulla giunta Raggi? Ma io cerco di rispondere con molto equilibrio. Da un lato sono convinta che ci sia un faro acceso quasi senza precedenti e questo è incontrovertibile. Dall'altro penso che questo faro dipenda anche dalla quantità di aspettative che si nutriva e che i cittadini stessi nutrivano nei confronti di un cambiamento così radicale alla guida di una città come Roma, che veniva da Mafia Capitale, che veniva da tanti anni di mala gestione. E quindi si sono sommate due elementi, la prima prova vera di governo 5 Stelle e tutto il resto, e tutto il contorno. Quanto al gossip, diciamo che è vero, a volte ci accaniamo, però è anche vero che molti dei temi su cui poi la stampa si concentra non sono colpa dei giornalisti che la raccontano, ma sono ancorati a fatti come quello di oggi che riguarda Berdini, che ha errori o a passi falsi che vengono commessi da loro stessi. e quindi è automaticamente normale che i giornali li raccontino. C'è tra l'altro visto la sindaca di Torino Appendino, anche del Movimento 5 Stelle, come sapete, che dice: complimenti a Virginia, ha già approvato il bilancio, amministrare è complicato, ma il Movimento 5 Stelle ha la forza per farlo. Grazie Manuela Perrone. Ciao. Grazie Manuela. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Voglio sentire una coda di Bianca Zei al Festival di Sanremo? Resisti solo tu, era il titolo e l'ultima strofa, praticamente abbiamo fatto il tempo a prendere soltanto quella. Voi intanto continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dice Aldo da Verona: non è una questione di cubature quella dello stadio di Roma, facciamo ridere, è una questione di milioni di denaro. E comunque appunto ci sono questi tavoli tecnici, c'è stato anche ieri, il Campidoglio ha parlato di un incontro costruttivo con i tecnici, vedremo come finisce questa vicenda prossimamente. Intanto direi di prenderci questa pausa. Vogliamo sentire anche Conti e De Filippi? Allora, campione, secondo campione, un veterano a Sanremo. Questa è la sua 8ª partecipazione e ha conquistato 2 vittorie qua su questo palcoscenico. Nel 90 tra i giovani con Disperato, nel 2004. Ah, questo è Marco Masini. Con l'uomo volante è Marco Masini. Vogliamo sentire un pezzettino? Dopo anni che ritorna Marco Masini, via, mettiamo qualche nota. Codice Barbuto 02 di Masini Zippa Masini Calvetti, spostato di un secondo. Dirige l'orchestra il maestro Diego Calvetti. Canta Marco Masini. Va tanto la barba, bisogna dire, anche ieri Ricky Martin. Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Beh. Il primo schiaffo ho capito il pianto. Che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento. Si allineano a stento. Volta indietro e ritrovarmi nudo e ritrovare la voglia di riempire ogni vuoto e fare tutto di nuovo un attimo dopo. Il titolo ha spostato di un secondo, noi ci spostiamo di un po' di secondi e ci ritroviamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi, il riassunto della giornata come sempre all'inizio, quindi seguite Effetto Notte sempre a partire dalle 21 puntualmente. Poi abbiamo parlato ampiamente del nuovo capitolo della giunta romana che riguarda le dimissioni annunciate dell'assessore all'urbanistica Berdini per delle critiche che aveva fatto in un'intervista alla stampa, lui dice in un'intervista, sono parole rubate, insomma, in cui criticava abbastanza pesantemente la sindaca Raggi e la sua giunta. E poi si sono incontrati, si è scusato con la sindaca Raggi, lei ha respinto le sue dimissioni con riserva, però ha detto. Adesso ci occuperemo di altri temi, intanto continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Vedo Francesco Totti, ospite di Sanremo, vogliamo dargli così la parola brevemente? Che ieri proprio non ha giocato e ha guardato il Festival di Sanremo. La volevo ringraziare proprio. Grazie, perché mi avete dato una dimostrazione d'affetto notevole. Grazie. Senti Carlo. Sì. Sei affezionato al numero 14? Al numero, perché 14? No, casomai il numero 10. Il numero 10 anche la Fiorentina ha un grande 10 che è Giancarlo Antonioni. Sono sicuro che tu sei affezionato al numero 14. Qua perché 14? Prova a contare. Insomma, è uno degli ospiti di questa sera, Totti, vedo che non parla al momento. E direi adesso invece di leggere, prima di passare al prossimo tema, alcuni vostri messaggi. Per esempio dice questo ascoltatore, con tutta la sporcizia che c'è in Italia trovate un granello pulito, la raggi e vi buttate come avvoltoi, è veramente una schifezza, dice questo ascoltatore. Poi un altro messaggio: la vicenda romana insegna che i curricula di prestigio non sono garanzia di successo, personalmente preferisco gli inesperti dilettanti con DNA grillino che una volta rodati dimostrano affidabilità ed efficacia. Ora la sindaca scenda dal trono ideale e faccia la sindaca operaia. Poi sempre dalla pagina Facebook di Effetto Nota, il 349-238-6666, Enzo dice: cara Roberta, devo dire che la Ferraggi mi intrigava, ora sono la nausea, come i film o la serie TV, la prima, la seconda serie, ok, quando arrivano alla sesta settimana non se ne può più. Gilles dice: mi sembra l'ennesima dimostrazione della pochezza della sindaca e di chi ce l'ha messa, vedo sempre attonito l'obiezione, sì, ma i problemi sono altri, sotto con annessi vari mi piace. E poi Rosanna scrive: considero che ormai, pur di non parlare dei problemi veri di questo paese, continuate su queste cazzate per distrarci, ma non ci riuscirete. Ora vi parlerò di altro, intanto vi ricordo brevemente quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, nel caos Roma, l'assessore Berdini rimette il mandato dopo l'intervista in cui criticava Virginia Raggi, ma la sindaca respinge le dimissioni con riserva. 'Ndrangheta, l'ex assessore lombardo Zambetti, condannato a 13 anni e mezzo per aver comprato i voti dalle cosche. Partito Democratico, Bersani dette i tempi e dice: sono per il voto nel 2018, il governo resti, si faccia la legge elettorale e a giugno il congresso. Prima via libera al decreto banche, il Senato vota sia la fiducia, il provvedimento passa ora alla Camera. Migranti, da marzo potrebbero prendere il via le procedure di infrazione dell'Unione Europea per gli stati che non effettueranno i ricollocamenti dei rifugiati. Basta bufele, ne parleremo tra pochissimo. E per quanto riguarda Sanremo, ogni tanto ce lo sentiamo, forse adesso Totti, vediamo se due parole le dice. Dicendo, non vorrei sbagliare, però. Quando era giovane. Ma sì, sì, sì. Ma sei sicuro? Lo so, poi io chiedo a casa. Perché secondo me... Dici, eh? Secondo me no, comunque andiamo avanti. Vincendo l'ultima edizione. Perfetto. Sta leggendo per annunciare il prossimi big. Va bene, passiamo al nostro argomento. Parliamo di bufale, non quelle che ci regalano delle ottime mozzarelle, naturalmente, ma quelle che definiscono le false informazioni messe in circolazione con intenti più o meno fraudolenti. Ne parlo perché, per l'appello lanciato dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha detto basta bufale contro le fake news, cioè appunto le false notizie, per il diritto a essere informati correttamente sul web. Da quando esiste l'uso di massa di internet, lo sapete, insomma, c'è una circolazione infinita di notizie che non possono essere tutte verificate, anzi Boldrini dice: bisogna essere informati, è un diritto, essere disinformati invece è un pericolo. Vogliamo sentirla in questo passaggio, in questa intervista a BuzzFeed, che è il principale sito al mondo che raccoglie informazioni in rete. Ho lanciato l'appello basta bufale, perché essere informati correttamente è un diritto, essere disinformati invece è un pericolo. Guardate che le bufale, le fake news, non sono una goliardata, una cosa che si fa per ridere insieme. Sono cose che vengono ragionate, che vengono proprio pensate per danneggiare qualcun altro, per creare paura, confusione. E tra i primi ad aderire, appunto, Francesco Totti, che abbiamo visto poco fa sul palcoscenico di Sanremo, Fiorello, Carlo Verdone, il regista Ozpetek, Gianni Morandi. E tra i primissimi firmatari, se non il primo firmatario, c'è Paolo Attivissimo, che saluto. Paolo, buonasera. Buonasera. Che è giornalista, consulente informatico, studioso della disinformazione nei media. Allora, intanto vogliamo definire meglio il termine bufale, Paolo? Sì, è un problema, perché bufala sembra un termine molto frivolo. In realtà sotto l'etichetta bufala ci sono le notizie fasulle inventate così per far sorridere, o le leggende metropolitane come gli alligatori nelle fogne di New York, ma ci sono anche storie estremamente più pericolose, ed è su questo che stiamo concentrandoci in questo periodo. Storie come per esempio la presunta alterazione delle magnitudo nei terremoti per non fare i risarcimenti, o le storie riguardanti i vaccini che conterrebbero sostanze tossiche, e altre storie di questo genere che hanno un effetto societario molto importante, cioè la gente smette di vaccinarsi perché ha letto qualche cosa su un sito di disinformazione. E la cosa interessante che è emersa dagli studi che abbiamo fatto in questi mesi è che non è soltanto un sentito dire, una diceria che circola, ma c'è proprio una fabbrica, una costruzione intenzionale di panzane per guadagnare, semplicemente attraverso i click dei social media. E quindi è importante a questo punto fare il punto della situazione e vedere che cosa si può fare per contrastare questo rumore di fondo che non fa bene a nessuno tranne a quelli che ci guadagnano dei soldi. Perché diceva infatti in questo appello Laura Boldrini, questa intervista, che le bufale non sono goliardate, come può essere appunto, diceva, il coccodrillo nelle fogne, la pantera che è scappata, però ci sono appunto delle bufale che provocano reali danni alle persone e che possono anche spingere l'opinione pubblica da una parte o dall'altra, creando anche degli squilibri nelle democrazie, no? Danneggiando e creando appunto dei falsi miti o addirittura delle campagne d'odio, no? Sì, sì, infatti molto spesso la bufala non è più bufala, quindi non è più giusto più chiamarla con questo termine frivolo, ma è una vera e propria malnotizia che serve per alimentare discorsi d'odio. Giusto per citarne una, la storia dei 35 euro che verrebbero pagati direttamente a ciascun immigrato, in realtà arrivano, vanno nelle casse delle società che gestiscono queste persone. Però questo significa che molti credono alla prima versione e questo crea risentimento, invidia, gelosie, e tutto questo serve per soffiare sul fuoco molto spesso, quindi c'è chi magari consapevolmente, magari inconsapevolmente crede a queste storie, le inoltre ai propri amici e crea quindi questo clima di incomprensione. Alla fine non ci si capisce e questo è il problema. Se non abbiamo dei fatti concreti sui quali basarci, le nostre opinioni saranno sicuramente sbagliate. Quello che si propone è di dire: inventiamo, creiamo, offriamo degli strumenti che sono già in parte esistenti per consentire a tutti di informarsi in modo più chiaro, per evitare le trappole, per non farsi fregare. Ma secondo te, Paolo, visto che diceva anche Laura Boldrini, i social network dovrebbero fare di più, perché ovviamente con il web ci può essere un impatto potenzialmente sconfinato, no, di queste notizie fasulle, diceva anche Facebook dovrebbe fare di più per contrastare queste notizie, discorsi d'odio non può limitarsi alle buone intenzioni. Secondo te, così di primo acchito, visto che appunto dici cosa farete, dei tavoli tecnici, o comunque bisognerà fare un punto su come affrontare, su come frenare questa diciamo produzione di massa delle bufale, quale potrebbe essere un modo per difendersi, un pronto soccorso, diciamo un primo soccorso per difendersi? Ma già da tempo si parla di introdurre dei semaforini, dei piccoli avvisi che possono comparire sullo schermo dello smartphone come su quello del computer, per dire: guarda che questa notizia ti arriva da una fonte che non ha una granché come reputazione, una specie di trip advisor per le notizie, ecco, mettiamola così. Lo vedi fattibile con tutta la mole di notizie che girano? Sì, tecnicamente è fattibile, non è particolarmente difficile, anche perché di fact checker, di debunker, come si chiamano in gergo, cioè di gente che verifica le notizie, che sa come andare alla fonte originale, ce n'è tanta nel mondo e tutti insieme possiamo fare la differenza. È anche un lavoro che possiamo fare tutti anche nelle scuole, per esempio. Questo è uno dei punti secondo me più interessanti dell'appello. Non è soltanto una questione di aspettare che qualcuno faccia il professorino e verifichi tutto quanto, ma anche nelle scuole che si comincia a discutere su come sviluppare lo spirito critico nei confronti delle notizie che riceviamo, quali sono i grimaldelli che possiamo usare per vedere, fiutare se una notizia è falsa o è manipolata. La statistica è uno degli strumenti che molto spesso viene usata per alterare la percezione della realtà. Come si imparano queste cose, come ci si difende, come si fa ricerca anche semplicemente di una foto falsa. Ci sono trucchi a volte semplicissimi, a volte basta un clic destro con il mouse, cerchi su internet la foto originale, la trovi, capisci che ti sei salvato da una fregatura. Quindi si può. Sì, sono primi passi allora. Grazie a Paolo, attivissimo. Prego. E buona continuazione, buona attività, Paolo. Grazie. Ciao. Sergio Silvestre a Sanremo, vogliamo sentire un po' la sua voce. Se è colpa mia, se non sbaglio, uno degli ultimi vincitori di Amici. Poesia, c'è lo spazio vuoto dentro e casa mia, solitudine di una malattia. Bene, pausa, ci risentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci sempre insieme, Roberta Giordano con voi. Abbiamo ancora un po' di minuti. Sergio sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: non sapete parlare d'altro, abbiamo ancora i terremotati nelle tende, vergognatevi giornalai. A proposito sempre delle notizie che riguardano la giunta romana, Chiara invece scrive: respingere con riserva, ridicolo, l'istituto non esiste nel nostro ordinamento, è solo scena. Ma se lo ha utilizzato probabilmente esiste. E poi invece Simone dice: in Italia siamo abituati alle finte dimissioni, nulla di nuovo direi. Adesso tra pochissimo c'è lo spazio europeo, per poi invece collegarci con Sanremo. Vi ricordo velocemente le notizie, che sono appunto quelle che riguardano l'assessore Berdini del Comune di Roma, che oggi ha dato le dimissioni per l'intervista che ha rilasciato alla stampa. Lui smentisce che sia stata un'intervista, la stampa conferma, in cui criticava molto la sindaca Raggi, e lei ha respinto le dimissioni con riserva. Poi è passata alla Camera la prima fiducia, al Senato anzi scusate, sul decreto legge banche, poi adesso il provvedimento passa alla Camera. Bersani, per quanto riguarda il PD, dice: il voto ci sarà nel 2018, chiedo il congresso a giugno e voglio sapere cosa ne pensa Renzi. E poi per quanto riguarda i migranti, l'Unione Europea fa sapere che da marzo sono possibili sanzioni sui mancati ricollocamenti, e il ministro Minniti propone lavori utili per i richiedenti asilo non retribuiti ma finanziati dall'Unione Europea. Spazio europeo. Europa 24 notte. È partita oggi la campagna europea per vietare l'uso di un pesticida considerato pericoloso, che è il glifosato. È partita oggi la campagna europea per vietare il glifosato. Si tratta di un'iniziativa dei cittadini europei, la cosiddetta ICE, per chiedere alla Commissione UE il divieto totale dell'uso dell'erbicida dannoso per l'ambiente e probabilmente cancerogeno per la salute umana. Molte le città europee che hanno partecipato al lancio della campagna, tra cui Berlino, Parigi, Madrid, Bruxelles. Per l'Italia l'appuntamento è stato questa mattina a Roma, con un primo banchetto di raccolta firme alla presenza dei promotori della campagna. Tra questi Greenpeace, di cui sentiamo Federica Ferrario, la responsabile campagna agricoltura sostenibile per l'Italia. Sì, esatto, stamattina abbiamo fatto il primo evento per lanciare questa campagna di raccolta firme a Roma, proprio all'ombra del Colosseo, con il primo banchetto dove è stato possibile apporre la firma e iniziare questa iniziativa dei cittadini europei, così è il nome, e con questo chiedere alla Commissione europea di vietare una volta per tutte il glifosato in tutta Europa. Ma non solo, le richieste che fanno parte di questa ICE, appunto iniziativa dei cittadini europei, è non solo di vietare il glifosato, ma anche di garantire che la valutazione scientifica sui pesticidi venga solo fatta utilizzando studi pubblici e quindi non più studi di parte private, e anche di avviare un chiaro calendario per andare progressivamente a ridurre l'uso di pesticidi in tutta Europa. Per tutto questo corrono 1 milione di firme e c'è un anno di tempo per raccoglierle? Sì, esatto, questa modalità dà un anno di tempo per raccogliere almeno 1 milione di firme, almeno 7 paesi membri, e c'è una pluralità di associazioni a livello nazionale ma anche a livello europeo che hanno iniziato a lavorare per questo risultato. Quindi la richiesta è chiara: vietiamo queste sostanze, che tra l'altro sono state definite anche dallo IARC come probabilmente cancerogene anche per la salute umana. Quindi stiamo parlando di una questione importante che ci riguarda da vicino, perché ricordiamoci che il glifosato è l'erbicida che è più venduto a livello mondiale, quindi lo ritroviamo sia in agricoltura ma sia per diserbare a bordo strada, sia in città per la gestione del verde in parchi, in scuole. Insomma, è una sostanza che veramente è stata ritrovata poi nel suolo, nell'acqua e anche nelle urine umane una volta controllato, quindi stiamo parlando di una contaminazione anche molto diffusa. Per questo rilanciamo veramente, chiediamo a tutti di unirsi in questa raccolta firma, sia sul sito di Greenpeace Italia sia sul sito europeo, che è possibile firmare direttamente questa iniziativa dei cittadini europei. Quindi veramente invitiamo tutti a aiutarci a autosalvaguardare. Ecco, anche se questo 1 milione di firme venisse raggiunto, questo non è sufficiente, nel senso che poi l'esecutivo UE avrà 3 mesi di tempo per decidere se accogliere o respingere la richiesta dei cittadini europei. Sì, però dovrà comunque esprimersi, dovrà analizzare però la richiesta che gli viene formalmente sottoposta con questo strumento. Diciamo così, non può fare orecchie da mercante. Per le informazioni e per firmare online, www.stopglifosate.org e www.greenpeace.org/stopglifosate. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora invece ci colleghiamo subito con la nostra inviata a Sanremo, Marta Cagnola. Marta, allora, Bundi ascolti, però Conti e De Filippi hanno detto va bene, però non giochiamo più, il prossimo anno non ci siamo, intanto però va avanti, come procede lì a Sanremo, Marta? Allora, come procede? Allora, questa è la seconda serata, quindi gli altri 11 campioni, ma prima ci sono stati i primi 4 giovani, perché la serata del mercoledì e quella del giovedì hanno anche i primi 2 turni dei giovani. Grande agitazione in sala stampa, perché diciamo che i 2 favoriti della la stampa non sono passati. Ci sono stati anche i soliti problemi con i votatori. Ormai anche tu sei esperto dei problemi con i votatori, Roberta, perché ogni volta che ci colleghiamo questo problema con le macchinette per il voto c'è. Qualche problema tecnologico, cos'è? Insomma, è meglio il pallottoliere a questo punto, no? Ma appunto, ma ti pare possibile che ogni anno io ti devo fare questo racconto del votatore che non funziona, funziona, non funziona? Vabbè, insomma, adesso ci chiariranno cosa è successo, se cambia qualcosa nelle votazioni oppure no. Però in questi momenti c'è grande agitazione, è arrivato il direttore di Rai 1, tra un po' arriva, non so, stiamo cercando di capire, perché ovviamente sono tutti molto, molto, molto, molto agitati. Lì se c'è qualche scorrettezza, poi dopo insomma, si va per vie legali. Senti Marta, infatti, tra l'altro, però, passando invece agli ospiti, abbiamo visto Francesco Totti, devono ancora arrivare Robbie Williams e Keanu Reeves, tu li hai visti dietro le quinte? Ebbene sì, no, in realtà no, non sono così vicino a loro, noi siamo sopra di loro, perché la sala stampa è sul tetto dell'Ariston, infatti si chiama Ariston Roof. Hanno cantato un po' di Big, adesso c'è stato Sergio Silvestre, che secondo me è uno di quelli che se la gioca veramente tanto. Tra poco ci sarà Gigi D'Alessio, ha fatto una canzone con un testo che vale la pena ascoltare, insomma, anche per i non fan di Gigi D'Alessio, secondo me è una cosa così che può emozionare. Che cosa altro raccontarti? Che andrà avanti a lungo, perché Gigi D'Alessio è il quinto campione in gara, sono 11, quindi ce ne sono ancora 6. Secondo me a te piacerà moltissimo Paola Turci, però penso di sì. Ti consiglio anche di non perderti Francesco Gabbani, perché ha un'esibizione che ricorda un po', così come effetto, ti ricordi quando Daniele Silvestri cantò Falirò con quella coreografia? Sì, con quel ballerino, molto carino, va bene, non lo perderemo allora. Ma non perdere. Grazie Marta Cagnola, buon festival, ci sentiamo domani, noi invece ci aggiorniamo brevemente alle 22.